se poi finisce mai. Quello che passa è ciò che conta, sai, l'importante è viverlo più che mai. Wow! Ma se hai bisogno noi siamo sempre qua, ci divertiamo ancora.